piano. Di Enrico Ruggeri. È Natale, buon Natale. Noi vogliamo stare in vostra compagnia anche in questo giorno di festa, per augurarvi, ma anche per augurarci un momento delle tradizioni, che come sempre Natale sia un giorno di gioia da passare assieme ai vostri cari o a chi volete, in pace, in armonia, perché Natale è la festa per eccellenza. Si dice a Natale siamo tutti più buoni, diciamo quantomeno che a Natale vogliamo che gli altri ci ritengano buoni. Cerchiamo di smussare gli angoli, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando e nell'altra stanza c'è quella cognata che lui non sopporta, quel cugino che viene ritenuto il più stupido della famiglia. Insomma, ci sono tutte queste dinamiche che in qualche modo a Natale hanno una specie di moratoria operativa, e quindi evviva il Natale anche in questo senso. Tutti amano il Natale. Quasi tutti in realtà, perché c'è uno che il Natale invece non lo ama, qualcuno che ha anche un motivo valido per odiarlo, almeno secondo lui, per odiare il suo prossimo. Uno che non sopporta di vedere la gente felice, la gente che festeggia, la gente che vive in armonia, è il simbolo del guastafeste. Ognuno di noi ne ha conosciuto uno di guastafeste, ma qui siamo agli estremi, perché oggi racconteremo la storia di questo personaggio. È una storia emblematica, una bella storia che può insegnarci molto sul significato del Natale, perché il nostro protagonista di oggi è il Grinch, quello che una volta decise di rubare il Natale. Ora, le motivazioni che spingono il Grinch a rubare il Natale non sono delle più nobili, come potete immaginare, perché lui vuole vedere la gente triste, vuole sentire bambini che piangono, vuole leggere sui visi di tutti la delusione di scoprire rovinata la festa alla quale ci si sta preparando tutto l'anno. Insomma, è uno che tipo vorrebbe sempre che gli interisti vivessero il 5 maggio nel quale hanno perso lo scudetto. Ecco, quelle giornate lì sono le giornate che lui auspica. Le sue azioni avranno un esito del tutto impensabile, perché causeranno una presa di coscienza di quella che è la vera natura di questa meravigliosa festa dello spirito, e insisto su questo, non dello sfarzo, dei regali costosi, della finzione. Bene, noi iniziamo la nostra storia, che parte proprio come una bellissima favola. C'era una volta, indovinate un po', una città chiamata chi non so, piena di gente simpatica e cordiale che amava soprattutto la gran festa del Natale. C'era soltanto il Grinch che non l'amava affatto, anzi, solo a pensarci diventava matto. Chiuso nella sua grotta sul Monte Briciolaio, pensava che il Natale fosse un grosso, orrendo guaio. Tra i picchi di Punta Boas si è adagiato questo paesino, il paesino di chi non so, abitato dai non so chi. A chi non so si prepara da sempre il Natale, che viene sentito anche lì come la festività più bella e importante di tutto l'anno. Gli abitanti sono indaffarati a comprare regali, a fare pacchi, e sembra che non pensino altro. I negozianti fanno a gara a esporre le vetrine più straordinarie, gli addobbi più spettacolari. Le case private sono illuminate dalle sfavillanti lucine natalizie, sono i giorni che precedono la festa, insomma, si ingaggia una vera e propria competizione tra vicini, come adesso quando vedi, non so, i babbi Natale arrampicati sui terrazzi e cose di questo genere. Tutti sembrano pazzi per il Natale. La piccola e dolce Cindy Lou, a 6 anni, è una bambina altruista, sentimentale, capace di guardare oltre le normali apparenze. Insomma, questa bambina è l'unica in città che abbia dei dubbi sul fatto che il senso del Natale sia nelle decorazioni e nei regali. Insomma, abbiamo una bambina più avanti, diciamo, spiritualmente rispetto a tutto il suo paese. Lei è convinta che il senso del Natale sia nella bontà d'animo, nell'amore che le persone manifestano. Nessuno l'ascolta però, né i suoi genitori né gli altri non so chi. L'unica creatura di tutta chi non so che invece detesta il Natale è il Grinch. Il Grinch è un essere verde, rugoso, peloso, che abita una caverna sul monte Briciolaio e sopra la città insieme al suo cane Max. Tutti non so chi temono il Grinch, non solo perché è spaventoso a vedersi, ma anche perché si comporta in maniera tremenda, vive in mezzo alla spazzatura, puzza, è sporco, fa di tutto per rendersi odioso. Non è ben chiaro perché il Grinch odi così tanto il Natale e in generale odi i suoi simili. La leggenda dice che lui ha il cuore di 3 taglie più piccolo. Di fatto è che il suo comportamento dispettoso e irrisorio delle abitudini degli altri cittadini fa sì che lui non sia ben visto e lui se ne sta rintanato a casa sua, in cima al monte Briciolaio. È un essere che fa paura. Diventa una specie di prova di coraggio per i ragazzini di Chi non so, cioè salire alla montagna, avvicinarsi alla sua casa, che poi in realtà è la sua caverna. Così il giorno della vigilia di Natale, i due fratelli maggiori di Cindy Lou decidono proprio di salire al monte Briciolaio per far bella figura con due ragazzine e loro amiche. Naturalmente il Grinch li terrorizza a morte e i quattro rotolano giù dalla montagna urlando di spavento. Quando Augustus Sindaki, che è il sindaco di Chi non so, viene a saperlo, si arrabbia moltissimo con il padre Lucky Lou, perché non vuole assolutamente che qualcuno vada a provocare il Grinch proprio sotto Natale, perché teme che lui si arrabbi e che rovini la festa. Il sindaco ha qualcosa da nascondere, perché ha un vecchio rancore nei confronti del Grinch, e scopriremo perché. Perché in questo caso non aveva proprio tutti i torti. Il Grinch, infastidito dalla visita poco opportuna dei ragazzi, ha deciso di scendere in città a fare qualche dispetto. Si traveste per non farsi riconoscere, si infila nell'ufficio postale del quale è responsabile proprio il padre di Cindy Lou, e vuole mettere confusione tra i pacchi e le lettere di auguri che riempiono gli scaffali della posta. Proprio qui la bambina incontra per la prima volta il Grinch. È un incontro particolare. Lei, quando lo vede, si spaventa tantissimo, cade nel nastro trasportatore dei pacchi, ma il Grinch la salva. Tu sei il Grinch. Aiuto! Beh, aiuto! Funziona meglio di quanto pensassi. Max, andiamocene. Il nostro lavoro qui è finito. Dietro sono di tutto il mondo, unitevi. Andiamocene. Grazie per avermi salvato. Salvata? È questo che credi che abbia voluto fare? Sbagliato? Ho semplicemente notato che eri impacchettata male, mia cara. Eh sì, il Grinch istintivamente salva la bambina Cindy Lou, poi però non vuole ammettere di aver compiuto una buona azione, vuole mantenere il suo ruolo di cattivo, così la impacchetta con un bel fiocco come se fosse un regalo di Natale. Però la bambina ha capito che dietro a quel viso verde, rugoso e peloso si nasconde in fondo un cuore buono, un cuore generoso, e chissà perché il Grinch è diventato così, lei decide di scoprirlo, vuole sapere tutto di lui, così comincia a chiedere sue notizie a tutti quelli che l'hanno incontrato. Chi può essere? Ciao piccolina, sei venuta a leggerci qualcosa? No, ho sentito che sapete delle cose sul Grinch. Cindy Lou ha due domande nel cuoricino adesso. Perché il Grinch odia il Natale e com'era successo? Vorrei che mi dicesse tutto quello che sapete del Grinch, per favore. Da dove è venuto? Oh, beh, è venuto da dove vengono tutti i non so chi. Nelle notti serene, i bambichini e le bambichine calano con l'ombrellino in un minuscolo cestino. Così che succede? Era la vigilia di Natale e una strana stramontana soffiava quella notte. Ma sai una cosa? Capimmo subito che era un tipo speciale. La bambina scopre che il Grinch era stato trovato in fascia alla vigilia di Natale, era stato allevato dai non so chi, curato da due vecchie zie. Lui era un tipo un po' particolare, dai modi primitivi, non era certo bello, era verde, peloso, però doveva avere un fascino particolare perché piaceva molto a Martha May, la ragazzina più carina della classe. Però su questa ragazzina aveva messo gli occhi addosso Augustus Sindaki. Ecco spiegata la rivalità di Sindaki, del sindaco, nei confronti del Grinch. Martha May era l'unica della classe che non derideva al piccolo Grinch, gli altri non facevano che sfotterlo, che emarginarlo per il suo aspetto, insomma. E il Grinch da piccolo viene bullizzato senza pietà. Un giorno, stanco di essere preso in giro perché ha tutto il corpo ricoperto di peli verdi, decide di radersi, però si taglia tutta la faccia. Quando arriva a scuola col viso pieno di cerotti, Augustus infierisce su di lui. Il povero Grinch fugge via disperato, si rifugia sul monte Briciolaio, dove cresce in solitudine, odiando tutti non so chi e il Natale. Una storia molto triste che colpisce tantissimo la piccola Cindy Lou. La bambina è dispiaciuta per tutte le sofferenze che ha dovuto patire il povero Grinch, decide di invitarlo come mastro allegro delle feste di chi non so. Naturalmente Augustus si oppone, tutti gli altri, ispirati dall'altruismo di Cindy, lo obbligano ad accettare quella candidatura del Grinch. Ora però bisogna convincere lui, l'unico abitante della città che odia con tutto il cuore il Natale. Tutti credono che non accetterà, ma Cindy Lou è una bambina molto determinata, non si arrende. Prende facilmente, prende il coraggio a quattro mani, si avvia su per il monte Briciolaio verso la caverna del Grinch. Ciao, creaturine. Come hai osato entrare nella tana del Grinch? Quale impudenza, quale audacia! Che inaudita faccia tosta! Tu hai voluto attirare il fulmine, quindi tienti pronta a fare boom! E ora guarda in faccia Signor Grinch, il mio nome è Cindy Lou. Visto? In un secondo il terrore cresce e lievita dentro il tuo cuore. Io non ho paura. Negarlo è naturale quando si è davanti alla pura malvagità. No, io non credo. Signor Grinch, le porto l'invito per fare il mastro allegro delle feste. Per le feste fare chissà che cosa? Il mastro allegro! La prego, devi accettare il premio. Non hai mai accennato a un premio? Sì, con tanto di trofeo. E ho vinto io? Sì, lei! Allora verrà? Va bene. Non so se è per quell'adorabile brillio nei tuoi occhi o per quel tratto anticonformista che mi ricorda un più giovane e meno peloso me da piccolo, però mi hai convinto. Cindy Lou è stata brava, è stata convincente, ha stuzzicato la vanità del Grinch parlandogli di un premio che lui ha vinto superando tutti gli altri in città, compreso il suo rivale, il Sindaki. Poi alla festa sarà presente anche Martha May, della quale lui è innamorato dai tempi della scuola. Insomma, è incredibile, ma vero, il Grinch accetta l'invito. L'arrivo in città del Grinch è festeggiato da tutti, le sue vecchie zie lo baciano, lo abbracciano, gli fanno indossare un costume natalizio, insomma inizia la festa. Il mastro allegro ha diversi compiti importanti, intanto deve assaggiare i budini nella gara fatta da tutta la cittadinanza per scegliere il migliore, poi deve guidare il trenino nel ballo di gruppo, poi c'è la corsa coi sacchi, la torta, alla fine della giornata lo scambio dei doni. E il Grinch si diverte tantissimo, tutti gli dimostrano affetto, lui sembra avere dimenticato quell'astio che prova da troppi anni nei confronti del Natale. Poi succede qualcosa che non doveva succedere, perché Augustus Sindaki, che è una persona perfida, ormai l'abbiamo capito, regala al Grinch un rasoio per fargli ricordare i brutti momenti passati da piccolo, quando aveva voluto radersi per avere la pelle liscia, per poter dichiarare il suo amore a Martha May. Gli ricorda quel terribile episodio che aveva scatenato in lui il rifiuto di tutto, e l'episodio per il quale lui era scappato in cima al monte Briciolaio. E il Grinch ripiomba nel baratro dei suoi fantasmi. In aggiunta a questo, riceve un altro dolore, perché un attimo dopo Augustus, sin da qui, dichiara pubblicamente il suo amore a Martha May, le chiede di sposarlo, le regala un enorme anello di diamanti e una bellissima automobile. Lei è sempre attratta dal Grinch, però si sa come sono le donne, diciamo certe donne. Rimane folgorata da quei regali così belli e costosi. Questi regali sono così accecanti. Ma certo che sono accecanti. E il punto è proprio questo, no? Si è trattato soltanto e sempre di questo. I regali. Regali. Regali, regali, regali, regali, regali. Volete sapere che fine fanno i vostri regali? Arrivano tutti da me. Su all'immondazzaio. Lo capite che voglio dire? Nella vostra spazzatura! Non si potrà impiccare con tutte le brutte cravatte di Natale che ho trovato nel pattume! La vita. La vostra avidità è infinita! Voglio le mazze da golf, voglio i diamanti, voglio un pony per cavalcarlo due volte, annoiarmi e poi venderlo per farci la colla! Sentite, io non voglio creare problemi, ma tutto l'intero periodo delle feste! Stupido, stupido, stupido! Lo hanno di nuovo offeso, lo hanno umiliato ancora una volta e il Grinch dichiara apertamente il suo disprezzo per il Natale, accusa i non so chi di essere dei falsi, degli avidi, perché per loro il Natale vuol dire solo farsi un sacco di regali che poi buttano via quando si stancano, e il loro materialismo lo rende furioso, così preso dall'ira distrugge l'albero di Natale della città, taglia i capelli al sindaco con il rasoio che lui gli ha regalato per farlo soffrire, crea scompiglio in tutta chi non so, poi se ne torna furibondo nella sua grotta. Tutto questo sommovimento anti-buonista spaventa a morte le persone, per strade c'è trambusto, lo spirito del Natale o quantomeno di quel tipo di Natale è fortissimo, chi non so, insomma tutti vogliono festeggiare, non farsi rovinare il momento più bello dell'anno. Sono anche molto previdenti, non so chi, perché avevano preparato un bellissimo albero di Natale di scorta e quindi anche se il Grinch ha dato fuoco al primo, loro ne hanno un secondo, lo mettono subito al centro della piazza principale. Poi, per darsi coraggio, per compattarsi, si mettono tutti in cerchio intonando un bellissimo canto di Natale. E il Grinch, lassù in alto, è convinto che gli arriveranno i lamenti della gente, i pianti dei bambini, e invece non è riuscito a rovinare la festa. Non era finita, pensò il Grinch con orrore. Doveva ancora venire il suo incubo peggiore. Laggiù squillavano campane a tutto spiano e tutti si stringevano prendendosi per mano e cantavano in coro con quelle odiose voci tutti quegli inni orrendi, quelle canzoni atroci. Oh sì, tutti a cantare, cantare e ancor cantare, e il solo pensiero gli dava il mal di mare. Insomma, grugnì il Grinch, qui devo darci un taglio, è più di mezzo secolo che faccio questo sbaglio. Devo trovare un modo, il modo più efficiente per bloccare il Natale di tutta questa gente. Ma insomma, come bisogna fare allora per bloccare il Natale a chi non so? E siamo arrivati alla sera della vigilia, intanto tra poco tutti andranno a dormire, arriverà Babbo Natale con la slitta trainata dalle renne, depositerà i doni nei camini, insomma tutto sarà fatto, il Natale sarà arrivato e il Grinch non lo accetta, non ci può pensare, è arrabbiatissimo, vuole assolutamente rovinare la festa a quella gente che l'ha fatto soffrire così tanto. Poi ha una improvvisa rivelazione, lui, il Natale, lo ruberà. Aspetterà che il vecchio Babbo Natale sia passato e poi, travestito lui stesso da Babbo Natale, entrerà di soppiato nelle case e ruberà tutto, i regali, gli abeti decorati, le luminarie, tutto quanto. Quando i non so chi si sveglieranno la mattina non troveranno più niente, non un solo segno che ricordi loro che è il giorno di Natale. Finalmente saranno disperati, lui avrà la sua rivincita, questo è il suo piano perfetto. Il Grinch ghignò con suono gutturale e lesto cucì un costume da Babbo Natale. Sghignazzò e ridacchiò, pensando al suo gran trucco grinciuto. Con giacca e berretto sarò quel vecchio barbuto. Sei maligno, signor Grinch. Che gran ghigno. Come un cactus espinoso, come un raspo espinoso, signor Grinch. Tu sei il cattivo numero Grinch sul tuo onore. Sei nato senza onore. Nel cervello tu c'è un ragno, la tua anima è uno stagno. Signor Grinch, è meglio stare lontano da te. 9 metri e 93. Tutto pronto per il furto del Natale. Il Grinch si è travestito con il suo abito rosso bordato di pelliccia bianca, ha costruito una slitta favolosa che lo porterà dritto in paese. Ha perfino legato sulla testa del suo cane Max un corno per farlo assomigliare a una rena. Insomma, ha un piano diabolico che non può fallire, anche perché, a chi non so, tutti stanno già dormendo in attesa del gran giorno, sognano i regali sotto l'albero e il tripudio trionfale del banchetto. Non sospettano che il Grinch, il loro Natale, ha intenzione di rubarlo. Il falco e il gabbiano. Abbiamo pensato di passarlo assieme il Natale in vostra compagnia e vi stiamo raccontando una storia molto particolare. Stiamo raccontando di questo allegro paese sempre in festa che si chiama Chi Non So e di un personaggio molto particolare, uno che invece è, diciamo così, in controtendenza. Si chiama il Grinch, è un essere verde, è rugoso, peloso, abita fuori da Chi Non So in una caverna, è l'emarginato di turno. In realtà abbiamo scoperto, poi vi rispiegheremo perché lui si sente ed è così emarginato. Nel frattempo sappiamo che lui odia tutto del Natale: gli alberi addobbati, le luci, i regali, il pranzo. Soprattutto lui non tollera la felicità delle persone. Però in realtà ha dei buoni motivi per odiare il Natale, per odiare la gente, soprattutto la gente quando festeggia il Natale, perché quando era piccolo lui veniva regolarmente bullizzato dai compagni di scuola per il suo aspetto. Proprio in occasione del Natale era stato deriso, umiliato, insomma aveva abbandonato la città, tutti i suoi abitanti, si era rifugiato in una caverna sul Monte Briciolaio ed era cresciuto odiando tutti e tutto. Lui non sopporta niente, soprattutto ha questa terribile idiosincrasia per il Natale, che è la festa più bella dell'anno, perché lì tutti sono più buoni, più disponibili, e quindi in qualche modo tutto questo acuisce il suo rancore, o se preferite, e io preferisco, il suo dolore. Tutti si stanno preparando al Natale e lui ha questa idea stupenda, per lui terribile di fatto, cioè decide di rubare il Natale. Si costruisce una slitta velocissima, scende, con la quale scendere in città, si fa da solo un costume da Babbo Natale, traveste il suo cane da renna e via. La notte del 24 dicembre, quando tutti dormono, arriva alle prime case della città proprio quando il vero Babbo Natale sta lasciando i suoi regali. Oh, oh, oh! Quel portasacco dovrebbe finire da un momento all'altro ormai. Quando si dice un eremita, esce di casa solo una volta l'anno, eppure nessuno si sogna di dirgli niente. Probabilmente abita lassù per evitare di pagare le tasse. Buon Natale! Porco spino! Adesso tocca a lui, tocca al Grinch. Tutti dormono, è il momento giusto per girare di casa in casa, diciamo per seguire Babbo Natale e rovinare ciò che lui sta costruendo. Ogni finestra è buia e la neve fiocca lenta. Sognando sogni d'oro, Chi Non So già si addormenta. Quando egli si avvicina a una casa tutta spenta. Benvenuto a Chi Non So, Max! Ci siamo, Max! Questa è la nostra prima tappa! Il Grinch si arrampica piano, sbuffando e sibilando con un sacco vuoto in mano. Deve scivolare nella cappa. Un'impresa ardua e dura. Ma se lo fa Babbo Natale, il Grinch non ha paura. Si appresta a eseguire un tuffo con doppio salto mortale in avanti, doppio avvitamento, salto e piegamento. Alto coefficiente di difficoltà. Rimane incastrato, ma soltanto un momentino. Accidenti alla cellulite. I dolci mi vanno tutti sui fianchi. Falco, spera! E dopo qualche intoppo, eccolo far capolino. Per favore, facciamo più pianino. Attraverso la cappa del camino. Ed ecco il Grinch nella prima casa. C'è un magnifico abete, tutto addobbato, pacchi, pacchettini sotto l'albero, il frigo pieno di cibi meravigliosi pronti per essere mangiati durante il pranzo di Natale. Lui arraffa tutto, mette ogni cosa nei suoi sacchi rossi e spinge tutto su per la cappa del camino fino al tetto, dove lo sta aspettando Max con la slitta. Quando non è rimasto più niente, e ci mette un attimo e poi decide di rubare anche l'albero. Proprio in quel momento arriva una sua conoscenza, la piccola Cindy Lou, perché quella è proprio la casa della bambina. Babbo Natale, che cosa fai con il nostro albero? Ma sapete, quel Grinch aveva sempre pronta una bugia abietta e si apprestò a dirla, svelto come una setta. Oh, mia cara, dolce piccolina! Disse il babbo Grinciale con la vocettina. Su questo grande albero non si accende più una luccetta. Così lo porto in laboratorio a casa mia, bamboletta. Vedrai, lo riparerò. E te lo riporterò. È tutta fretta. Qual è il significato del Natale? Dimmelo. La vendetta. Voglio dire, i regali, suppongo. Era questa la mia paura. Babbo Natale. Che c'è? Non dimenticare il Grinch. Lo so che è cattivo, puzzolente e peloso. Forse le sue mani sono fredde e scivolose, ma secondo me lui è dolce. Dolce? Cindy Lou continua sempre a pensare al Grinch, nonostante tutto quello che è successo. Lei crede in lui e crede che ci sia della bontà in lui. Le dispiace per tutto quello che è successo, per il fatto che la gente non lo capisca, che si fermi alle apparenze, anzi che gli abbia dato una possibilità e lui l'abbia disattesa. E intanto il Grinch rispedisce Cindy Lou a letto e continua il suo furto del Natale. E dovunque va, prende quello che può: tamburi, biciclette, scacchiere, caramelle, biscotti, lecca lecca, trombe, pattini a rotelle, apre le ghiacciaie di tutta chi non so, ruba salsicce, gelatina, torte, polpette, budini, frutta, non lascia neanche un pezzetto di pane, mette tutto nei suoi sacchi e via, su per il cammino. Ormai la città di chi non so è completamente ripulita, neanche una lucina, un addobbo di Natale, neanche un alberello, non c'è neanche un piccolo pacchetto, un regalino minuscolo, niente. Tutto quello che era il Natale dei non so chi è stato rubato dal Grinch, che in questo momento è sulla sua slitta, sta correndo veloce verso la sommità del Monte Briciolaio. Il suo intento è quello di buttare tutto giù dal dirupo. Intanto si è fatto mattina, i primi abitanti di chi non so si svegliano, scoprono l'accaduto. Augusto Sindachi, il sindaco, il cattivo di questa vicenda, si arrabbia molto. Ve l'avevo detto, invitate il Grinch e distruggerete il Natale. Poi si rivolge a Cindy Lou, che lui considera la colpevole di tutto quello che è successo. Le dice, sarai fiera di quello che hai fatto. Però in difesa della bambina arriva il suo papà. Cindy, mi auguro che tu sia molto fiera di quello che hai fatto. Se lei non lo è, lo sono molto io. Sono contento che ci abbia rubato i doni. Che cosa? Io sono molto contento. È molto contento? Tu sei contento che tutto sia svanito? Tu sei contento che il Grinch abbia del tutto rovinato? Non rovinato, polverizzato il nostro Natale. È questo che volevi dire tu, Lou? Non si può distruggere il Natale, signor Sindachi. Perché non è fatto di regali o di gare o di luci colorate. È questo che Cindy cercava di dire a tutti noi. E a me? Cercava di dirlo a me? Si può sapere che ti prende? È solo una bambina. È la mia bambina. E si dà il caso che abbia ragione, fra parentesi. Io non ho bisogno di altro per festeggiare il Natale più di quello che ho qui. La mia famiglia. Buon Natale a tutti! Eh già, non serve molto per festeggiare il Natale, bastano gli affetti più cari. Questo cercava di dire Cindy Lou a tutti e il padre l'ha capito, lo spirito del Natale. Non sono i regali, non sono le luminarie, il tacchino da mangiare, lo spirito del Natale è la voglia di stare assieme a quelli che amiamo, cercare di essere più generosi, più disponibili nei confronti degli altri, anche di quelli che magari ci piacciono un po' meno, come il Grinch. E tutti i non so chi si sentono confortati dalle parole del papà di Cindy Lou, si mettono a cantare tutti assieme. Insomma, il Natale dimostra la sua grande forza, dimostra che non può essere rubato, perché non risiede nelle cose ma nei sentimenti delle persone. Il Grinch sta architettando il sistema per buttare tutta la sua refurtiva natalizia giù dal burrone del monte. C'è qualcuno che non ha alcuna intenzione di abbandonarlo al suo triste destino solitario. È Cindy Lou, perché la bambina ha deciso di trascorrere il giorno di Natale proprio con lui. Il falco e il gabbiano. È il giorno di Natale, la piccola Cindy Lou non vuole che il Grinch passi la festa da solo, si arrampica sulla montagna, va a cercarlo alla sua caverna, però non lo trova, segue la scia della sua slitta di neve, perché nel frattempo lui aveva portato la slitta diventata pesantissima perché conteneva tutti i regali del paese, gli addobbi e le luminarie, l'aveva portata sull'orlo del burrone per gettare tutto di sotto e distruggere quello che lui riteneva essere il Natale, l'essenza del Natale. Però mentre stava per spingere la slitta aveva sentito dei canti provenire dal fondovale, aveva mollato tutto per andare a sentire. Adesso il Grinch è sul versante del Monte Briciolaio che sovrasta la città. Quello che la gente fa e quello che lui sente lo stupisce enormemente. Poi il Grinch udì un canto salir da chi non so, da prima basso e fioco, poi sempre più aumentò. Eh? Eh? Ma non sembrava triste, bensì un allegro canto. Ma sì, era proprio allegro, allegro tanto. Tutti non so chi, giovani e vecchietti, cantavano felici, anche senza quei pacchetti. Lui non l'aveva fermato, il Natale era arrivato. Il Natale è arrivato, è stato tempo sprecato! E il Grinch, coi piedi grinciosi nel terreno ghiacciato, continuava a pensare sconcertato. Ma com'è capitato? È venuto senza nastri, è venuto senza fiocchetti, è venuto senza pacchi, bustine, biglietti! Il Natale è arrivato lo stesso, tutti i piani del Grinch per rovinarlo sono completamente falliti e lui non sa spiegarsi come sia possibile. Poi, improvvisamente, capisce, ha la sua rivelazione. E il pensatoio gli scoppiava per quanto si era scervellato. A un tratto cambiò tutto. Può darsi che il Natale... Egli pensò. Può darsi che il Natale... può darsi abbia un significato più complicato. E cos'era successo? Beh, dicono tutti a chi non so che il suo cuore quel giorno di ben 3 taglie aumentò. E così accade un miracolo, il cuore del Grinch, che lo ricordate, era piccolo, era rinsecchito, era di minuscole dimensioni, cresce in un attimo di 3 taglie, torna a essere un cuore dalle dimensioni umane, capace di avere sentimenti, un cuore capace di amare. In quel preciso istante lui prende coscienza di tutto, capisce di avere sbagliato, si ricorda improvvisamente che ha lasciato la slitta con tutti i regali e con le luminarie di Natale in bilico sul burrone. La slitta sta per cadere, lui tenta di fermarla, però è pesante, è troppo pesante, lo sta trascinando con sé verso il disastro. Lui sta per mollare tutto, lasciarsi andare alla fine. Poi scopre che sulla slitta c'è anche Cindy Lou, la bambina che era venuta a cercarlo, insomma, che è in pericolo. E allora si sente nascere dentro una forza sovrumana. Lui può morire, non la bambina. sente qualcosa che non aveva mai sentito prima e riesce a trascinare al sicuro la slitta con la forza della disperazione, forse con la forza dell'amore. Recupera tutti i giocattoli, soprattutto mette in salvo la piccola Cindy Lou. E così avviene questa scena, per chi non so, arriva questo strano terzetto, il Grinch, Cindy Lou e il cane Max. Sono sulla slitta, una slitta pesante, ingombrante, riescono a fermare la slitta davanti alla cittadinanza. Il Grinch si dichiara pentito di aver rubato a tutti il Natale, ha riportato indietro il bottino, il mal tolto, è pronto a farsi arrestare. Grazie per l'aiuto! Ciao Cindy! Buon Natale a tutti quanti voi, amici nostri! Ah, è tornato! E va bene, sentiamo. Che è successo qui? Lei mi ha beccato, agente! Sono stato io! Io sono il Grinch che vi ha rubato il Natale! E mi dispiace. Non mi mette le manette. Un collare a strozzo? Non vuole accecarmi col pepe spray? Lo ha sentito, agente. Lo ha ammesso. Io comincerei col pepe spray. Sì, signore, l'ho sentito e come, Sindaki. Ha detto che gli dispiace. E poi sembra che ci sia tutto e tutto in ordine. I non so chi decidono che il Grinch si è meritato il perdono. L'unico ovviamente che non è d'accordo è Augustus Sindaki, e lui continua a essergli ostile come lo è sempre stato fin dai tempi della scuola. In fondo è il suo carnefice personale. Stavolta però le cose vanno diversamente. Il Grinch ha capito il valore degli affetti, il valore della bontà, ha trovato una nuova famiglia con la sua piccola amica Cindy Lou. E poi c'è un'ultima sorpresa per lui, il colpo finale, qualcosa che lui proprio non si aspetta. Aiutatemi, miei amati, non so chi io. Marta! Buon Natale, Augustus Sindaki! Temo di avere anch'io una sorpresa per te qui. Ti restituisco il grillarello. Scusa, ma il mio cuore appartiene a qualcun altro. Oh la ragazza. Allora senza rancore? Sta allegro amico, buon Natale. E con questo epilogo così poco comune, cioè con una bella ragazza che rifiuta gioielli, macchine, regali costosi per andare dall'uomo che ama, che peraltro è anche molto brutto, quindi siamo proprio nel campo delle una probabilità su un milione, ma il Grinch questa volta è dalla parte giusta del destino e passa il Natale più bello che lui abbia mai passato, e c'è da prevedere che da questo momento i suoi Natali saranno tutti così, consapevoli di quello che più conta nella vita, Natali belli, pieni di allegria, di felicità, come il Natale che noi vi auguriamo. Buon Natale da me, da tutta la redazione del Falco e Gabbiano, da Radio 24. Divertitevi, tanto amore che vi passi almeno vicino. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simone Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.